L'Istituto di Scienze Religiose in Trento ha promosso negli anni scorsi, presso il Centro Bernardo Clesio, due cicli di lezioni riguardanti l'introduzione allo studio della teologia dogmatica e l'introduzione allo studio della teologia morale, tenuti rispettivamente dal professor Valentini e dal professor Trentini. Quest'anno lo stesso istituto offre, sempre presso il Centro Bernardo Clesio, un ciclo di 5 lezioni bibliche, nelle quali verranno approfondite le tematiche fondamentali del Vangelo di Luca. Le conversazioni iniziano martedì 26 febbraio ad ore 18 e sono affidate al professor Zani, docente di Sacra Scrittura presso il seminario diocesano. Martedì 4 marzo, ore 18, ad evangelizzare i popoli ha mandato me, il discorso di Gesù a Nazareth. I popoli ha mandato me. Martedì 4 marzo. Ecco il mio benvenuto a tutti per questa seconda lezione di cui avete visto il titolo, che punta sulla persona di Cristo, ha mandato me ad evangelizzare i poveri, Gesù. E passo la parola senz'altro al collega Donzani, è vero che ascoltiamo tutti tanto volentieri. Ecco, all'inizio del ministero di Gesù, Luca pone un discorso programmatico, normalmente noto col nome di discorso di Nazareth, col quale appunto intende presentarci e il programma e l'attività di Gesù. Ora, questo stile, cioè l'introdurre un personaggio tramite un discorso da lui compiuto, è caratteristico di Luca. Conosciamo tutti, ad esempio, come gli Atti degli Apostoli, dopo la discesa dello Spirito Santo, contengono un primo e molto sviluppato discorso di Pietro. Sempre Luca, negli Atti degli Apostoli, al capitolo 13, ci presenta il primo discorso di San Paolo e naturalmente un discorso anche quello molto accurato, perché è il primo discorso di Paolo. È il discorso che contiene e la teologia e la metodologia dell'Apostolo Paolo. Altrettanto possiamo aspettarci che avvenga qui nel Vangelo. Con il discorso di Nazareth, Luca intende presentare per la prima volta la persona di Gesù, ma ce la presenta già con una completezza che vedremo è assai sorprendente. Questo stile, che dicevo caratteristico di Luca, non è esclusivamente suo. Conosciamo tutti, ad esempio, come il Vangelo di Matteo collochi all'inizio il discorso della montagna. Ora Luca il discorso della montagna lo sposta più avanti nel suo Vangelo e quindi il ruolo di discorso programmatico è affidato alle parole che Gesù pronuncia in un sabato nella sinagoga del suo villaggio, nella sinagoga di Nazareth. E prima di commentare direttamente il discorso, lo vogliamo leggere insieme. Oltre al discorso vero e proprio, mi permetto di premettere anche i due versetti di introduzione, quindi cominciando dal capitolo 4, versetto 14 in poi. Gesù ritornò in Galilea con la potenza dello Spirito Santo e la sua fama si diffuse in tutta la regione. Insegnava nelle loro sinagoghe e tutti ne facevano grandi lodi. Si recò a Nazareth dove era stato allevato ed entrò, secondo il suo solito, di sabato nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia. Apertolo trovò il passo dove era scritto: «Lo Spirito del Signore è sopra di me, per questo mi ha consacrato con l'unzione e mi ha mandato per annunziare ai poveri un lieto messaggio, per proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista, per rimettere in libertà gli oppressi e predicare un anno di grazia del Signore». Poi arrotolò il volume, lo consegnò all'inserviente e sedette. Gli occhi di tutti nella sinagoga stavano fissi sopra di lui. Allora cominciò a dire: «Oggi si è adempiuta questa scrittura che voi avete udita con i vostri orecchi». Tutti gli rendevano testimonianza ed erano meravigliati delle parole di grazia che uscivano dalla sua bocca. Segue poi il resto della reazione dei nazaretani, che leggerò nella seconda parte dell'incontro. Dicevo che Luca riserva una particolare attenzione quando presenta il primo discorso di uno dei personaggi centrali delle sue due opere, gli Atti o il Vangelo. Ora, in questo discorso, Luca cura anche la stessa introduzione. E l'introduzione ci è molto utile per capire ormai la situazione. Luca dice che Gesù ritornò in Galilea con la potenza dello Spirito Santo. Con queste parole solenni viene presentato il ministero pubblico di Gesù. Ritorna in Galilea. E la Galilea è una regione, dal punto di vista religioso, di religione mista, perché è una regione di confine fra il mondo ebraico e il mondo pagano. Quindi in questa regione, religiosamente non del tutto pura, in questa regione che è ai confini con il mondo pagano e quindi anche disprezzata nel mondo palestinese, Gesù comincia con la potenza dello Spirito Santo e Luca pone così tutta la persona di Gesù sotto l'influsso, sotto il segno dello Spirito Santo. Lo Spirito che era sceso su Gesù, abbiamo visto martedì scorso, aveva portato Gesù a fare un'esperienza straordinaria nel deserto. Ora lo Spirito lo porta nuovamente tra gli uomini. E Gesù, lasciandosi guidare dallo Spirito, comincia la sua attività in questa terra semipagana. Ed è lo Spirito che permette a Gesù non solo di annunziare con le parole, ma di inaugurare la presenza del Regno. E Luca fa subito un'altra annotazione: la sua fama si diffuse in tutta la regione. Questo ritornello, la fama che si diffonde, è anche caratteristico di Luca. È una frase che Luca adopera di frequente per sottolineare l'effetto positivo che Gesù ha suscitato nei suoi contemporanei. La frase ritorna, per esempio, al capitolo 4, versetto 37: «E si diffondeva la fama di lui in tutta la regione». Ritorna al capitolo 5, versetto 15: «La sua fama si diffondeva ancora di più». La rileggiamo, questa frase, al capitolo 7, dopo la risurrezione del figlio della vedova di Naim, al versetto 17. «La fama di questi fatti si diffuse in tutta la Giudea e per tutta la regione». E poi cito ancora un ultimo esempio, al capitolo 18, versetto 43. «Tutto il popolo, alla vista di ciò, diede lode a Dio», dopo che venne guarito il cieco di Gerico. Quindi Luca ci tiene a sottolineare fin dall'inizio che quando Gesù comincia a parlare e ad agire, il popolo si rende conto che non sta assistendo ad un avvenimento marginale, non sta assistendo alle solite parole, forse numerose, forse anche belle, ma in fondo vuote. Il popolo si accorge che è sorto uno che li comprende, uno che li conosce, uno che condivide la loro vita, uno che li sa guidare con sicurezza, uno che agisce con amore. E per questo Luca quasi rincara la dose e, dopo aver detto la sua fama si diffuse in tutta la regione, ribadisce il pensiero aggiungendo: tutti ne facevano grandi lodi. Questo serve per il lettore perché possa disporsi ad ascoltare le parole di questo personaggio. Se allora la sua fama si è diffusa e tutti ne facevano grandi lodi, probabilmente, deve pensare il lettore, questo Gesù ha qualcosa di importante da dire anche oggi, anche per me, anche per la nostra società. E qui arriva la prima cosa che va tenuta presente. Gli altri due evangelisti, Matteo e Marco, avevano detto in una forma molto breve, ma anche in una forma stupenda, quale era il primo messaggio proclamato da Gesù. Lo leggiamo ad esempio in Marco, capitolo 1, versetto 15. Le parole programmatiche di Gesù le riassume così Marco: il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino, convertitevi e credete al Vangelo. E le stesse parole sono riportate anche in Matteo. Gesù comincia dicendo che il tempo è giunto a un compimento, che il regno, cioè la presenza efficace di Dio, ormai è fra gli uomini devono semplicemente aprirsi a questo dono e credere. Luca stranamente omette questa frase. Perché questa frase così riassuntiva, così facile anche da ricordare, Luca semplicemente la salta? Ora, la risposta che normalmente si dà è unanime: a Luca principalmente non interessa il tempo, cioè non interessa che il tempo sia giunto a compimento, perché per Luca il tempo quasi è ancora una cosa astratta, una cosa che non mi tocca, una cosa che mi lascia a freddo. E a Luca non interessa direttamente neanche il regno di Dio che si è avvicinato, perché questo regno poi rischia di venir frainteso. Questo regno poi Marco dovrà continuamente dire: guardate che non è una cosa politica. Perciò Luca omette e il tempo e il regno, e invece incentra tutta l'attenzione su Gesù, sullo Spirito che lo guida e lo abilita, sulla parola che lui pronuncia. Quindi in Luca il regno, che può essere capito male, che forse è semplicemente per molti una cosa, è meglio che venga sostituito. E Luca quindi, con una trasposizione chiaramente voluta, intenzionale, al posto del regno presenta direttamente Gesù. Presenta Gesù che precisa la sua missione. E Gesù precisa la sua missione in quel famoso sabato nella sinagoga di Nazaret. Ora, per capire un po' questo discorso di Gesù, vale la pena riassumere in una maniera molto breve come si svolgeva ogni sabato il rito sinagogale, perché l'episodio è chiaramente inserito in questo rito che per gli ebrei era abituale. Come si svolgeva il culto sinagogale del sabato? Cominciava anzitutto con una preghiera. La preghiera che è il credo, anche odierno, degli ebrei, contenuto nel Deuteronomio al capitolo sesto. Questo credo comincia con le parole «Ascolta Israele, il Signore nostro Dio, il Signore è uno solo, amerai il tuo Dio», eccetera. «Ascolta» in ebraico è «Shema», quindi questa preghiera veniva chiamata «Shema». E subito dopo questa professione di fede seguiva una preghiera di benedizioni, 18 benedizioni. Ora in ebraico 18 si dice Semoneh Esreh, e quindi questa seconda preghiera di 18 benedizioni è chiamata anche oggi, perché la adoperano ancora oggi gli ebrei, Semoneh Esreh. Poi seguiva una prima lettura che veniva fatta in piedi per rispetto alla parola di Dio, ed era tolta questa prima lettura dal libro della legge, da quello che noi chiamiamo Pentateuco. Questa lettura era fatta in modo continuo, cioè di sabato in sabato si andava avanti, pressappoco come nella nostra liturgia domenicale, in modo tale che nel giro di 3 anni venisse letto tutto il Pentateuco. Dopo a questa prima lettura faceva seguito una seconda, tolta dai libri dei profeti. Questa lettura veniva chiamata Haftarah, che in ebraico significa passo conclusivo. Seguiva quindi una lettura tolta dai profeti, in modo tale che questa seconda lettura costituisse già un commento alla prima. Quindi i profeti non venivano letti in ordine, ma venivano presi dei brani dai profeti che rafforzassero il tema contenuto nella prima lettura. Dopo c'era un commento, lo poteva fare chiunque, naturalmente uomo, con una certa preferenza per i leviti e i sacerdoti, ma non necessariamente doveva essere un levita o un sacerdote, e poi la benedizione finale data dal sacerdote. Quindi questo è il contesto nel quale Gesù si inserisce. Anche lui, abbiamo letto, si alzò a leggere. E dopo aver letto, tutti si misero a sedere. Vorrei notare anche l'accuratezza con la quale Luca introduce questa lettura di Gesù. Gli fu dato il rotolo, lo srotolò, poi legge, e terminata la lettura Luca dice lo riarrotolò e lo diede al serviente. Gli fu dato, lo srotolò, lo riarrotolò e lo tornò a dare. Quindi due verbi, dare e il verbo arrotolare. E poi c'è il tratto del profeta Isaia. Sappiamo tutti che è tolto da Isaia capitolo 61. Non mi soffermo sul significato originale del brano. Il profeta che parla nel periodo dell'esilio annunzia la liberazione degli ebrei, appunto la liberazione dalla prigionia dell'esilio, e annuncia che questa liberazione verrà fatta da un misterioso personaggio non però con le sue forze, ma perché lo Spirito di Dio è sopra di lui. Luca cita questo brano di Isaia, introducendovi però delle leggere modifiche. Una prima modifica. Luca omette l'espressione sanare i contriti di cuore. Perché ha lasciato via questa frase? Non è molto facile dire il perché, ma con tutta probabilità il motivo è il seguente. Luca è medico e quando adopera il verbo sanare lo adopera sempre in senso fisico, non in senso spirituale, sanare i contriti di cuore. Lo adopera sempre in senso fisico, quindi probabilmente per questo ha omesso l'accenno. Poi aggiunge rimettere in libertà gli oppressi, che in Isaia 61 non c'è, c'è in Isaia al capitolo 56. Con questo tratto Luca vuole sottolineare il tema della liberazione, che è poi così frequente nel suo Vangelo. Ma soprattutto Luca omette, perché il brano di Isaia terminava così: predicare un anno di grazia del Signore e promulgare un anno di vendetta. Questo Luca lo omette ed è una omissione che Luca fa consapevolmente, perché la fa altre due volte. Al capitolo 7, versetto 22, dove cita Isaia 35 e anche lì omette l'accenno alla vendetta, e anche in Atti omette l'accenno alla vendetta. Quindi Luca è lo scrittore che mette in evidenza la grazia, la bontà, la benevolenza di Dio rivelatesi in Cristo e volutamente tralascia accenni alla vendetta. Commento di Gesù a questo brano. Anche il commento è introdotto in una maniera molto chiara. Gli occhi di tutti nella sinagoga stavano fissi sopra di lui. E dopo il commento c'è un'altra frase: tutti gli rendevano testimonianza ed erano meravigliati. Cioè Luca quasi incentra il commento tra due frasi che sottolineano la partecipazione, la solidarietà, l'attenzione della gente. Gli occhi di tutti stavano fissi sopra di lui. È come se Luca ti dicesse: apri anche tu adesso gli occhi, le orecchie e il cuore a quanto viene detto. E dopo che Gesù ha pronunciato il commento, Luca dice: tutti gli rendevano testimonianza ed erano meravigliati delle parole di grazia, come per dire: anche questa reazione dovrebbe essere la reazione che colpisce te. E il commento di Gesù, così introdotto, è quello che tutti conosciamo: oggi si è adempiuta questa scrittura che voi avete udito con i vostri orecchi. L'anno di salvezza, cioè, che Dio aveva preannunciato, è concreto, è iniziato, però sta tutto solo nella persona di Gesù. L'anno di salvezza è semplicemente Lui. Questa salvezza si realizza nelle parole che Lui pronuncia. Perciò, per essere partecipi di questa salvezza, è necessario ascoltare queste parole. Per capirle un po' meglio, mi permetterei un piccolo passo indietro. quando Luca presenta il Battista, quando Luca presenta nel suo Vangelo la persona di Giovanni Battista, ancora una volta Luca fa ricorso a Isaia, voce di uno che grida nel deserto: preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri, eccetera. Presentando la persona di Gesù, Luca ricorre allo stesso metodo, ricorre al profeta Isaia. Sappiamo quanto Luca ci tenga nel suo Vangelo a instaurare un parallelismo fra Giovanni il Battista e Luca e Gesù, però con questa continua attenzione: Gesù, pur conducendo un'esistenza e una missione simile a quella del Battista, è di gran lunga superiore a lui. E questo è un po' il tema di tutti i racconti dell'infanzia di Luca. E anche in questo caso vale la stessa considerazione. Tutti e due, il Battista e Gesù, vengono presentati tramite le parole del profeta Isaia. Però c'è questa differenza: le parole di Isaia vengono applicate al Battista da Luca, è l'evangelista che gliele applica. Le parole di Isaia è Gesù stesso che le applica a sé, è Gesù stesso che le cita. Tutti e due realizzano Isaia, però lo realizza in una maniera di gran lunga più piena Gesù, perché lui stesso comincia la sua attività citando espressamente il profeta Isaia, e lo cita con l'espressione iniziale: lo Spirito del Signore è sopra di me. È un accenno questo che richiama esplicitamente il battesimo di Gesù, scese su di lui lo Spirito Santo, richiama il brano che abbiamo letto martedì scorso: Gesù pieno di Spirito Santo si allontanò dal Giordano e fu condotto dallo Spirito nel deserto. Quindi la citazione di Isaia la fa Gesù stesso, richiamando alla realtà dello Spirito, che è indispensabile a Gesù per compiere la missione, a noi per capirla, a noi per intravedere il suo senso, il suo significato. E Gesù dice: oggi si è adempiuta questa scrittura. Forse qui ci sarebbe anche un suggerimento a noi preti sul come fare l'omelia, che non è prima di tutto una predica nel senso di una lezione morale, ma è affermazione di una realtà che nella liturgia si realizza, è affermazione di un presente nuovo che nella liturgia diventa concreto. Ed eventualmente, se si guarda al passato, è per dire: quel passato influisce sul mio presente oggi. Ma su questo non mi soffermo. Intendo piuttosto ribadire un altro pensiero. Gesù dice che la scrittura si è adempiuta in lui. Cioè, per capire Gesù ormai non è facoltativo, non è consigliabile, non è utile, ma è necessario leggere le scritture. E quelle che Gesù leggeva erano quelle che noi chiamiamo Antico Testamento, perché naturalmente il Nuovo non era ancora stato scritto. Per capire Gesù, quindi, occorre leggere la scrittura. Tutta la scrittura, commenterà Sant'Ilario di Poitiers, è un unico libro, e questo libro è Cristo. L'ignoranza delle scritture, dice San Girolamo, citato poi nel Vaticano II dalla Dei Verbum, tutta la scrittura parla di Cristo e l'ignoranza della scrittura è ignoranza di Cristo. Però qui c'è un ulteriore approfondimento. Normalmente i primi cristiani dicevano: per capire la morte e la risurrezione di Gesù bisogna leggere l'Antico Testamento. Luca qui fa un passo più avanti, non soltanto per capire il momento culminante della vita di Gesù, ma per capirla tutta, per capire la sua vita pubblica, unico aiuto possibile è quello offertoci dalle scritture. Gesù è colui che le legge e ci aiuta a leggerle. E le scritture si adempiono perché Gesù è qui. Oggi, e la parola oggi è molto cara a Luca, oggi è giorno di salvezza, perché Gesù è qui che parla e che dà un senso alle attese delle scritture. Facciamoci un'altra domanda. In che senso oggi si realizza la scrittura? Quali sono i segni di questa realizzazione? Gesù ne elenca quattro. Annunciare ai poveri un lieto messaggio, proclamare ai prigionieri la liberazione, ai ciechi la vista, rimettere in libertà gli oppressi. Quindi i poveri, i prigionieri, i ciechi, gli oppressi. Se poi guardiamo la vita pubblica di Gesù, praticamente i segni li ha ridotti a due: poveri e ciechi. E se leggiamo il seguito del racconto, vediamo che praticamente Gesù identifica nella sua vita i poveri con i malati. Cosa vuol dire questo? Gesù ha esemplificato chi è il povero e come va aiutato. In altre parole, per lui poveri, prigionieri, oppressi sono gli ammalati, e questi ammalati li ha guariti. Con questa semplificazione i Vangeli cosa fanno? Ci impediscono di prendere il termine povero, prigioniero, cieco, oppresso in senso puramente spirituale. Non sono quattro termini da intendere in senso solo spirituale, ma in senso anche materiale, anche concreto. E Gesù ha voluto che questa concretezza venisse rappresentata da quella povertà che tutti vedono e che è la malattia. Certo, non ci ha obbligati a dire solo i malati sono poveri, sono prigionieri, sono oppressi. Non ci ha obbligati per niente. Però ci ha obbligati a dire povertà, prigionia, oppressione, prendiamoli in senso concreto anche, non soltanto in un senso spirituale. Noi siamo liberi, anzi veramente siamo invitati a prolungare questa interpretazione, a riconoscere le varie forme di povertà, di prigionia, di oppressione, a patto che restiamo anche nel campo del concreto e non soltanto nel campo di una povertà spirituale, di una prigionia spirituale, di una oppressione spirituale. E subito dopo, quando la gente obietta, cita l'esempio della vedova di Sarepta, certamente povera, materiale, e di Naaman Siro, povero nel senso che è malato. Quindi la missione di Gesù comprende anche le necessità corporali. In questo settore trova un segno, trova un'espressione. Gesù quindi, davanti alla comunità del suo paese, proclama di essere venuto ad annunziare un lieto messaggio a queste persone. Sappiamo che il problema non è tanto nel dire chi è il povero, chi è il prigioniero, chi è l'oppresso, perché se siamo un po' sinceri lo sappiamo tutti. Non occorre fare tante disquisizioni. A noi interessa forse un'altra domanda. Perché Gesù si interessa di queste persone? Perché i poveri, perché i prigionieri, perché i ciechi, perché gli oppressi? Perché si è comportato così? Qual è la motivazione di questo suo programma? E questa domanda ci interessa abbastanza. Ora, la motivazione di Gesù non sta semplicemente nella compassione, nella commiserazione. La motivazione sta nel fatto che egli è colui che inaugura il regno. Mi spiego meglio. Gesù qui parla da profeta e non da politico. Cioè, il suo discorso e la sua prassi non nasce da un'analisi della società. Gesù non ha studiato la società, non ha dedotto probabilmente in qualche anno la classe trainante sarà quella dei poveri, perciò cerchiamo di favorirla. Il comportamento e il discorso di Gesù non nasce da un'analisi della società, ma dall'analisi di chi è Dio. A evangelizzare i poveri Dio mi ha mandato. Non nasce dall'analisi di chi è povero e del perché è povero, ma dall'analisi di chi è Dio e di come Dio si comporta. Quindi Gesù per questo motivo sceglie i poveri, perché si è chiesto chi è Dio e che progetto ha Dio su ogni uomo. E la risposta per Gesù è pacifica. Dio ama ogni uomo, fa sorgere il sole sui giusti e sui peccatori. Dio ama ogni uomo e lo ama sempre. Perciò ogni emarginazione è una forma di ateismo, perché non rispecchia la fede del popolo in Dio. Se Dio ama ogni uomo e lo ama sempre, come mai uno che crede in Dio non si interessa principalmente del povero che da Dio è amato? Quindi il comportamento di Gesù non nasce da una lotta di classe, ma nasce da una riflessione di fede. Gesù suppone prima qualcosa, e questo qualcosa è la rivelazione che Dio è amore verso ogni uomo e che ogni uomo quindi conta perché Dio lo ama. E proprio se Dio ama ogni uomo, i diritti di ogni uomo sono sottratti a qualunque oscillazione, delle mode, delle politiche, eccetera. Dio lo ama. Perciò Gesù si comporta così, ripeto, perché è profeta e non perché è politico. Si comporta così per un'esperienza religiosa. E questa esperienza religiosa darà una unità a tutte le sue parole, a tutte le sue azioni e, diciamolo pure, anche a tutte le sue polemiche. Allora deriva qualcos'altro per noi. Deriva che la prima domanda da farci non è quella domanda con la quale troppe volte ci dilettiamo: chi è il povero? Perché il Vangelo non parla di poveri, ma parla di evangelizzare i poveri. E allora occorre chiederci non chi è il povero, ma cosa vuol dire evangelizzare il povero, che è molto diverso, perché possiamo fare volumi e volumi sui poveri e i poveri restano tali e quali. La domanda che il Vangelo ci invita a fare è: cosa vuol dire evangelizzare i poveri? Cosa si dà a un povero evangelizzando? Perché lo si evangelizza? Come lo si evangelizza? Ora mi pare che la risposta è implicita nel discorso di Gesù a Nazaret. L'evangelizzazione cos'è? È l'azione di una persona che, avendo sperimentato Dio, avendo lo Spirito di Dio dentro di sé, ritiene fondamentale, necessario comunicare agli altri questo tesoro. Quindi l'evangelizzare i poveri prima di tutto è, per esprimermi con una parola greca molto cara a Luca, una coinonia, una comunicazione, una partecipazione. Gesù è il primo evangelizzatore a evangelizzare i poveri, ha mandato me, perché è il primo che ha fatto esperienza di Dio. E allora deve donare qualcosa ai poveri. Questa esperienza non la può tenere per sé. Cosa deve dare ai poveri uno che ha fatto esperienza di Dio? Lasciamo le cose abbastanza ampie. Quello che ho te lo do, dice Pietro. Uno avrà denaro, darà il denaro. Uno non ha denaro, oro e argento non ne ho, avrà però qualcos'altro. Ma l'evangelizzatore è colui che vuol comunicare il tesoro che possiede. Ciò che non può mancare di comunicare comunque è il tesoro più profondo, cioè la sua esperienza di Dio. E questa comunicazione per sé non ha limiti. Ecco perché Gesù, una volta fatta un'esperienza così profonda di Dio, lo Spirito del Signore è sopra di me, non può più tenere niente per sé. Solo a partire da qui capiamo qualcosa della morte di Gesù in croce e qualcosa dell'Eucarestia. Perché ha fatto esperienza di Dio e si rende conto della povertà dell'uomo, si sente mandato a donare tutto quello che è e tutto quello che ha, la sua vita per noi. Del resto, l'Apostolo Paolo, con il quale Luca aveva fatto un'esperienza notevole, scrivendo la sua prima lettera, si rivolge così ai cristiani tessalonicesi, prima lettera, capitolo 2, versetto 8: così affezionati a voi, avremmo desiderato darvi non solo il Vangelo, ma la nostra stessa vita. Ed è chiaro quindi che questo discorso programmatico di Gesù, Luca lo colloca all'inizio del Vangelo, e serve anche per il libro degli Atti degli Apostoli, cioè detto fuori di figura, serve per la vita della Chiesa. Prolungando il discorso di Gesù, la Chiesa vive questa esperienza di Dio che si è comunicato a lei, dandole lo Spirito, e questa Chiesa che deve comunicare agli altri, tendendo a che cosa? Che non ci siano, dirà Luca negli Atti, dei poveri in mezzo a voi. Ma la forza che muove, ripeto, è nel fatto che Dio si è donato all'uomo. Dio si è donato all'uomo e questa esperienza è necessario prolungarla, estenderla agli altri. Due parole ancora sulla reazione che la gente di Nazareth ha fatto di fronte a questa prima presentazione di Gesù. Leggiamo direttamente il Vangelo di Luca e poi due parole di commento. Dicevano: non è il figlio di Giuseppe. Ma egli rispose: di certo voi mi citerete il proverbio: medico, cura te stesso. Quanto abbiamo udito che accadde a Cafarnao, fallo anche qui nella tua patria. Poi aggiunse: nessun profeta è bene accetto in patria. Vi dico anche, c'erano molte vedove in Israele al tempo di Elia, quando il cielo fu chiuso per 3 anni e 6 mesi e ci fu una grande carestia in tutto il paese, ma a nessuna di esse fu mandato Elia se non a una vedova in Sarepta di Sidone. C'erano molti lebrosi in Israele al tempo del profeta Eliseo, ma nessuno di loro fu sanato se non Naaman il Siro. All'udire queste cose, tutti nella sinagoga furono pieni di sdegno. Si levarono, lo cacciarono fuori della città e lo condussero fin sul ciglio del monte sul quale la loro città era situata, per gettarlo giù dal precipizio. Ma egli, passando in mezzo a loro, se ne andò. All'inizio gli abitanti di Nazaret, gli uditori di Gesù, restano salutarmente colpiti, gli rendevano testimonianza, erano meravigliati delle parole di grazia che uscivano dalla sua bocca. Gesù ha conquistato i suoi uditori, però egli non ha mai obbligato nessuno a credere. E dalla lode improvvisamente si passa al rifiuto, e nel profondo degli uditori si ridesta lo scandalo ed emerge qualcosa di perfido. E chiunque legge questa pagina resta sconvolto. Come è potuto accadere un rovesciamento così radicale di sentimenti? Come mai dalla meraviglia per le parole di grazia si passa al rifiuto, dal rifiuto si passa all'espulsione, al linciaggio, al tentativo di uccidere Gesù? Umanamente è inspiegabile, e storicamente anche è inspiegabile. Però qui Luca usa ancora un procedimento che è normale nel suo stile. Quando lui tocca un argomento, quando Luca tocca una persona, un luogo, descrive tutto quanto è avvenuto lì. Cioè Luca cucisce insieme diversi episodi e ama presentare tutto insieme quello che è avvenuto in situazioni distinte. Anche qui, confrontando Luca con Marco e Matteo, è facile leggere che a Nazaret Gesù ha avuto perlomeno 2 e probabilmente 3 incontri. Luca congloba tutto in uno. Aveva fatto la stessa cosa nel capitolo precedente, quando parla del Battista che battezza la gente, dice in quella occasione che Erode lo fece rinchiudere a causa delle sue scelleratezze che gli venivano rimproverate, anche se questo è avvenuto più tardi. Quindi Luca ama conglobare. Luca sacrifica un po' lo svolgimento storico per presentare al completo o una località o un personaggio o la determinata reazione suscitata. Sacrificando un po' lo svolgimento storico, Luca cosa ottiene? Mette in evidenza una storia più vera e più profonda. Già all'inizio del ministero di Gesù si intravede la croce. Già il primo brano che parla di Gesù parla di entusiasmo e di croce, parla di adesione, di fede e parla di morte. Gesù si è presentato come il profeta perché è colui che realizza le parole di Isaia. Si presenta come colui che fa rivivere le vicende di Elia e di Eliseo. Ebbene, in questo brano Luca già ci fa capire che Gesù, se si è presentato come profeta, dovrà vivere la sorte di ogni profeta, cioè il rifiuto. Ma in questo brano c'è qualcosa di più. Dovrà vivere la sorte di ogni profeta, ma egli, passando in mezzo a loro, se ne andò. Nessuno gli ha potuto mettere le mani addosso. Le forze dell'odio e della morte non lo hanno vinto. Nessuno dispone della sua vita perché ne dispone soltanto lui e il Padre. Già in questo brano, quindi, Luca ci presenta Gesù profeta, ma nello stesso tempo Signore, che domina la morte ancor prima che questa avvenga. E prima di concludere chiediamoci un po' velocemente, chiedo scusa per la lunghezza, da dove è nata questa avversione improvvisa? Come mai gli abitanti di Nazareth non lo hanno accolto con entusiasmo? Da dove è nata l'avversione? Un primo motivo: come mai pretende di essere il profeta che libera il popolo quando è un uomo, direbbe Giovanni Paolo II, 4 marzo 79, prima enciclica, quando è un uomo come tutti i miliardi di uomini? Perché pretende di liberare l'uomo? Lo vedevano, sì, buono, forse migliore di loro, però in fondo sudava come loro, lavorava come loro, si stancava come loro, era esternamente come tutti, non era eccezionale così come essi se lo sarebbero atteso. È troppo uomo Gesù per essere colui che salva. Martedì 18 marzo, quarta lezione, perduto e ritrovato. Uguale a tutti gli uomini, in tutto uguale a noi tranne che nel peccato, non può essere il profeta atteso. In secondo luogo si scandalizzano dicendogli: quello che hai fatto a Cafarnao fallo anche qui. Cioè vogliono subito i prodigi. In altre parole, se non procura loro benessere terreno, fama, potenza, non può essere il profeta vero. Ma benessere terreno, fama e potenza, Gesù le aveva appena rifiutate nelle tentazioni nel deserto. Non è venuto a dare queste cose. Il benessere terreno l'uomo se lo può procurare con le sue forze, è venuto a dare se stesso, la potenza dello Spirito, la assicurazione che Dio ama e di conseguenza la coscienza della dignità di ogni uomo. E queste cose agli abitanti di Nazaret sembrano un po' secondarie. Infine si arrabbiano perché cita la vedova in Sarepta di Sidone, territorio pagano, Naaman, Siro, pure pagano. Non vogliono essere misurati dalla parola di Dio, ma la vogliono misurare. Non vogliono aprirsi alla conversione perché convinti che in fondo non ne hanno bisogno. Soprattutto non son contenti che questa salvezza venga in qualche maniera preannunciata a tutti. E anche qui ci sarebbe una riflessione profonda da fare sul come accogliere la parola di Dio, lasciando prima di tutto che sia essa a porci delle domande, a metterci in questione, disposti a umiliarci, a lasciarsi travolgere e criticare da questa parola. Così la dobbiamo leggere. E tale non è la disponibilità degli abitanti di Nazaret, perciò si ribellano a Gesù, insorgono, lo respingono, e respingendolo, rifiutandolo, non si rendono conto che anziché colpire lui, in realtà colpiscono se stessi. Ecco quindi come è questo primo discorso di Luca, come egli ci offre una prima presentazione di Gesù. Gesù è colui che in Luca quasi rende più concreto il regno. È stato mandato da Dio, proprio perché ha capito chi è Dio, fa una scelta di amore nei confronti degli uomini. In questa scelta lo abilita, lo assiste lo Spirito. Tutto questo diventa chiaramente per Luca, oltre che il programma di Gesù, anche il programma che la Chiesa costantemente deve meditare e realizzare. Ringraziamo per quest'altra lezione così lucida, insieme così spirituale. Come al solito, chi ha dovere o necessità o piacere di andarsene è congedato e atteso per la prossima volta. Chi ha piacere invece di fermarsi per prolungare il dialogo è cordialmente benvenuto. Martedì 25 marzo, quinta lezione, lo riconobbero nello spezzare il pane. Questo comunicato a chi mi parte da dire anche. Glielo dico dopo. Sì. Sì, sì. Eccoci, allora benvenuti per questa ultima delle nostre cinque lezioni, che ormai ci mette anche personalmente nell'immediata vicinanza della Pasqua, alla quale vedo che il tema è quanto mai adatto per introdurci. Argomento di questa riflessione è il risorto e la Chiesa, e cercheremo di illustrare un po' questo argomento partendo da uno degli episodi più significativi del Vangelo secondo Luca, l'incontro del risorto con i due discepoli di Emmaus. Questo racconto fa parte del capitolo conclusivo del Vangelo secondo Luca, e in tutti i Vangeli il capitolo conclusivo è quello che riferisce le apparizioni di Gesù dopo la sua risurrezione. Sappiamo quanto sia fondamentale per i cristiani la fede nella risurrezione. Per convincercene mi limito a leggere soltanto due passi. Il primo, Atti, al capitolo primo, versetto 22, Pietro definisce se stesso e gli altri apostoli testimoni della risurrezione. E Paolo, poco prima di morire, qualche settimana immediatamente prima della sua morte, scrive così nella seconda lettera a Timoteo: ricordati che Gesù Cristo, della stirpe di Davide, è risuscitato dai morti secondo il mio Vangelo. Quindi il messaggio cristiano si riassume in queste espressioni: Gesù è morto per noi ed è risuscitato per la nostra salvezza. Questa fede è espressa con diverse modalità nel Nuovo Testamento. Abbiamo ad esempio all'alba della fede, cioè proprio all'inizio della Chiesa, i discorsi registrati da Luca nel libro degli Atti degli Apostoli, incentrati tutti sull'annuncio della risurrezione di Gesù. Poi abbiamo delle confessioni di fede, molto frequenti nelle lettere di San Paolo specialmente. Poi abbiamo degli inni che celebrano la gloria del Cristo risorto. Uno dei più celebri di questi inni lo sentiremo nella liturgia di domenica prossima, Domenica delle Palme. Si è fatto obbediente fino alla morte e alla morte di croce, per questo Dio lo ha super esaltato e gli ha dato un nome che è al di sopra di ogni altro nome. Ma l'evento della resurrezione di Gesù non è stato soltanto ricordato mediante degli inni, mediante delle professioni di fede o nell'annuncio della predicazione. Ci sono state anche delle illustrazioni più particolareggiate, le quali si sono soffermate non nel descrivere il modo con cui Gesù è risorto. Il modo non viene descritto nel Nuovo Testamento, fa parte del mistero di Dio, ma nel descrivere le conseguenze più immediate, cioè le apparizioni di Gesù. Le apparizioni di Gesù risorto le troviamo fissate specialmente nei Vangeli. Ora, per comprenderle, vanno tenute presenti due particolarità. I racconti delle apparizioni costituiscono il capitolo conclusivo, dicevo prima, di ogni Vangelo. Allora è chiaro che ogni evangelista, nel raccontare le apparizioni di Gesù risorto, ha sottolineato quei temi, ha sottolineato quel messaggio che è stato il tema, il nucleo centrale di tutta l'opera. Quindi questi racconti delle apparizioni in ogni Vangelo costituiscono anche la conclusione dell'intero messaggio. Inoltre, i singoli Vangeli, pur scegliendo degli avvenimenti in parte diversi tra loro, seguono tutti uno stesso triplice schema. Il capitolo conclusivo di ogni Vangelo ha questo schema: all'alba del primo giorno della settimana alcune donne vanno al sepolcro e lo trovano vuoto. Poi un secondo passo: le apparizioni di Gesù a persone familiari, cioè non al nucleo degli undici. Queste persone possono essere Maria Maddalena, possono essere le pie donne, possono essere, come vedremo tra poco, i due discepoli di Emmaus. E poi, al termine di ogni Vangelo, c'è la apparizione ultima, definitiva, quella ufficiale, al nucleo degli undici apostoli, l'apparizione che segna anche il loro invio, la loro missione, il loro diventare testimoni. Il racconto dell'apparizione ai due discepoli di Emmaus rientra quindi nel gruppo delle apparizioni a persone non con un ruolo ufficiale nella Chiesa. Questo racconto è, come osservano unanimemente tutti i commentatori, un autentico capolavoro, e gli stessi artisti, specialmente pittori, ne sono rimasti profondamente impressionati e hanno tentato di fissarlo sulla tela. Una delle invocazioni che sta al centro del racconto è divenuta una preghiera perenne nella Chiesa: rimani con noi, Signore, perché si fa sera. Prima di analizzare questo racconto, vale la pena quindi sentire direttamente ciò che Luca ci trasmette. In quello stesso giorno, è il pomeriggio del giorno di Pasqua, due di loro erano in cammino per un villaggio distante circa 7 miglia da Gerusalemme, di nome Emmaus, e conversavano di tutto quello che era accaduto. Mentre discorrevano e discutevano insieme, Gesù in persona si accostò e camminava con loro, ma i loro occhi erano incapaci di riconoscerlo. Ed egli disse loro: «Che sono questi discorsi che state facendo fra voi durante il cammino?» Si fermarono col volto triste. Uno di loro, di nome Cleopa, gli disse: «Tu solo sei così forestiero in Gerusalemme da non sapere ciò che vi è accaduto in questi giorni?» Domandò: «Che cosa?» Gli risposero: «Tutto ciò che riguarda Gesù Nazareno, che fu profeta potente in opere e in parole davanti a Dio e a tutto il popolo, come i sommi sacerdoti e i nostri capi lo hanno consegnato per farlo condannare a morte e poi l'hanno crocifisso. Noi speravamo che fosse lui a liberare Israele. Con tutto ciò sono passati 3 giorni da quando queste cose sono accadute. Ma alcune donne delle nostre ci hanno sconvolti, recatesi al mattino al sepolcro e non avendo trovato il suo corpo, sono venute a dirci di aver avuto anche una visione di angeli, i quali affermano che egli è vivo. Alcuni dei nostri sono andati al sepolcro e hanno trovato come avevano detto le donne, ma lui non l'hanno trovato». Ed egli disse loro: «Sciocchi e tardi di cuore nel credere alla parola dei profeti. Non bisognava che il Cristo sopportasse queste sofferenze per entrare nella sua gloria. E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui». Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare più lontano. Ma essi insistettero: «Resta con noi perché si fa sera e il giorno già volge al declino». Egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, disse la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero, ma lui sparì dalla loro vista. Ed essi si dissero l'un l'altro: «Non ci ardeva forse il cuore nel petto mentre conversava con noi lungo il cammino, quando ci spiegava le scritture?» E partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli 11 e gli altri che erano con loro, i quali dicevano: «Davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone». Essi poi riferirono ciò che era accaduto lungo la via e come l'avevano riconosciuto nello spezzare il pane. Prima di affrontare i temi principali di questo brano, 2 osservazioni vorrei premettere. Anzitutto Emmaus. La ubicazione di questo villaggio non è ancora del tutto sicura. L'Evangelista Luca parla di 60 stadi, circa 11 chilometri. L'opinione più probabile è che si tratti dell'odierno villaggio El Kebeibe, uno dei luoghi veramente più suggestivi per chi ha la grazia di visitare la terra di Gesù, la Terra Santa. Poi una seconda particolarità: uno dei due discepoli si chiama Cleopa. Un cristiano della Palestina vissuto nel secondo secolo, Egesippo, riferisce che questo Cleopa era zio di Gesù, fratello di San Giuseppe. Quindi si tratterebbe dell'apparizione di Gesù al nucleo dei parenti che, dopo averlo quasi abbandonato, dopo averlo preso per pazzo, hanno cambiato nei suoi confronti mentalità e lo hanno seguito. Il figlio di questo Cleopa è un certo Simone, che dopo il 70, cioè dopo la distruzione di Gerusalemme, rimane il responsabile della Chiesa palestinese. Così almeno stando a quanto dice Egesippo verso il 160-180 d.C. Ma veniamo più direttamente ai temi teologici che a noi, come al solito, interessano maggiormente. Questi due discepoli sono naturalmente due persone realmente esistite, ma Luca ce le presenta anche come due paradigmi, due modelli grazie ai quali possiamo comprendere la nostra esperienza e la nostra fede. Questi due discepoli esprimono tutto il peso della sfiducia e delle delusioni umane. Rimpiangevano la perdita di un amico, ma dietro la perdita dell'amico rimpiangevano le loro speranze infrante, forse rimpiangevano la loro carriera stroncata, ed esprimono tutto il peso della delusione allontanandosi da Gerusalemme. L'incontro con Gesù aveva suscitato in loro progetti e speranze enormi. Però questi progetti, queste speranze, erano rimaste inappagate. La croce aveva sconvolto tutto. E per loro un Salvatore morto in croce era semplicemente un non senso. Quindi esprimono tutta la sfiducia e la delusione dell'uomo. Esprimono questi due lo smarrimento dell'uomo di fronte alla realtà del dolore e della croce. Questo episodio, perciò, Luca lo scrive per aiutare la Chiesa di ogni tempo a rispondere ad alcuni interrogativi costanti. Che significato ha la vita e il dolore? Dove è la fedeltà di Dio se su questa terra esiste la croce? Dove si può incontrare il Dio vivente e fedele nella nostra esistenza? Luca sa che è difficile credere nell'amore di Dio quando si è nella sofferenza. Luca sa che quando si è nella sofferenza è molto facile voltare le spalle a Gerusalemme, il luogo dove vive la comunità, il luogo della salvezza. È molto facile isolarsi, è molto facile fuggire, andar via. Però questi due discepoli hanno in sé qualcosa di estremamente positivo. Per tre volte Luca dice: conversavano di tutto quello che era accaduto, discorrevano e discutevano insieme. Cioè, è vero, sentono il peso della delusione, però lungo il cammino discutono, e non di discorsi frivoli. Discutono sull'accaduto, discutono cioè sul senso del dolore, sul senso della morte, sul significato della persona di Gesù, sulla necessità che l'uomo venga liberato. Non sono rassegnati alla delusione e perciò parlano di Cristo. Vittorio Messori, introducendosi nel libro diventato molto celebre Ipotesi su Gesù, dice che tra persone educate, purtroppo, di Gesù si ha vergogna a parlare. Gesù è tra gli argomenti che mettono a disagio in una conversazione. E va avanti Messori dicendo che ci si laurea magari in storia senza porsi un interrogativo su questo falegname ebreo che, volere o no, ha spezzato la storia in due tempi, prima di Cristo e dopo Cristo. Questi due discepoli di Emmaus ci dicono che essere religioso vuol dire porsi appassionatamente la domanda sul senso dell'esistenza. E lo si voglia o no, continua Messori, piaccia o no, da secoli le due sillabe Gesù sono legate al senso della nostra vita. A questi due individui che discutono, Gesù si affianca e inizia un'attività di istruzione ponendo delle domande. Che sono questi discorsi che state facendo? Cosa è accaduto in questi giorni a Gerusalemme? Gesù, con delle domande, approfondisce il dialogo e comincia ad aprire la mente e il cuore di questi due discepoli all'incontro. I loro occhi, nota Luca, erano incapaci di riconoscerlo. Però Cleopa risponde a Gesù in un modo che ci lascia veramente stupiti. Gesù è chiamato il Nazareno, profeta potente in opere e in parole, colui che fu consegnato a morte, colui che fu crocifisso, colui che deve liberare Israele, colui che secondo le dicerie delle donne è vivo. Queste espressioni Luca le riprende tali e quali nei discorsi di Pietro a Gerusalemme dopo Pentecoste. Anche Pietro dopo Pentecoste afferma che Gesù è il Nazareno, è profeta potente in opere e in parole, è colui che fu consegnato a morte e venne crocifisso, è colui che deve liberare Israele. Però la proclamazione di Pietro è una proclamazione piena di gioia e di coraggio. Le parole che dice Cleopa invece sono espressione di una delusione. Le parole di Pietro sono parole che suscitano l'entusiasmo degli uditori. Quando Cleopa ha finito di parlare, si sente semplicemente dire: sciocchi e tardi di cuore. Perché? In fondo le parole dei discepoli di Emmaus sono identiche a quelle di Pietro, a quelle di Stefano, a quelle di Filippo, a quelle di Paolo negli Atti degli Apostoli. Perché si sentono questo rimprovero? Sciocchi e tardi di cuore. Perché dalle loro parole traspare soltanto disperazione, o perlomeno delusione. Sono parole che esprimono una fiamma di un nazionalismo messianico, forse addirittura vendicativo. Dovrebbe essere lui a liberare Israele. Traspare turbamento e una prospettiva miope. Sono chiamati stolti, a differenza di Pietro, perché per loro due la morte di Gesù resta ancora una tragedia, perché ad essi manca ancora la chiave per leggere la vita di Gesù. Non hanno ancora la luce pasquale per capire tutta la persona di Gesù. Non arrivano più in là che vedere in lui un profeta, potente in opere e parole. Questo ci fa veramente riflettere. Quanti oggi mettono Cristo tra i profeti, veri o presunti, e pensano con ciò che la loro professione di fede sia già sufficiente? Mettono Gesù tra i profeti veri o presunti, però depennano dalla sua esistenza la morte e la risurrezione. A chi vede Gesù semplicemente un profeta, però non sa leggere la sua morte come una risurrezione, Gesù semplicemente risponde: stolti e tardi di cuore. E molti oggi si richiamano a Cristo e meritano forse questo rimprovero: stolti e tardi di cuore, perché non basta una elencazione precisa dell'interesse di Gesù per i poveri, delle sue azioni e delle sue parole. Occorre una fede esplicita nella sua vittoria ottenuta attraverso la morte e la risurrezione. Ed ecco allora che Gesù aiuta lentamente i due a compiere il cammino della fede. Deve togliere un velo dai loro occhi. Erano incapaci di riconoscerlo. Il velo aveva impedito di cogliere la verità del messaggio delle donne. Da dove viene questa cecità? Probabilmente non viene da una mancanza di buona volontà, da una disattenzione. La loro cecità deriva da un fatto più profondo: l'uomo da solo, con le sue forze, non è mai capace di capire il mistero della morte e risurrezione di Gesù. Lui stesso, lui in persona, deve togliere questo velo. Cristo stesso, cioè, deve annunciare la sua risurrezione. Senza la sua parola, la risurrezione di Gesù rimane incomprensibile e incredibile. E Gesù toglie il velo attraverso la via delle Scritture, cioè attraverso l'Antico Testamento. Cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le Scritture ciò che si riferiva a lui. Per capire, cioè, che non c'è prima la morte di Gesù e dopo la risurrezione, ma che già la morte di Gesù è un trionfo dell'amore, per capire questo bisogna ricorrere alla Scrittura. E questa scrittura deve venir spiegata non semplicemente dall'uomo, ma deve venir spiegata da Gesù stesso. Dicevo già in un incontro precedente che l'ignoranza della scrittura è ignoranza di Cristo, perché Gesù è colui che interpreta veramente la scrittura ed è colui che a sua volta viene interpretato. Con la parola di Dio, quella dell'Antico Testamento, Gesù spiega il senso della sua sofferenza e ribadisce che il Dio della speranza non può uccidere speranze autentiche. E se quei due erano delusi è perché avevano avuto non speranze troppo grandi, ma speranze troppo ristrette, troppo materiali, troppo terrene. Gesù apre l'intelligenza per capire che tutta la scrittura parla di lui, proprio perché egli la porta a compimento con la morte e resurrezione. E dal giorno di Pasqua, noi cristiani, quando leggiamo l'Antico Testamento e lo riferiamo a Cristo, non solo non facciamo violenza al testo, ma per noi non è possibile nessun'altra lettura. Ogni altra spiegazione che non arriva al Cristo si ferma soltanto al suono esterno delle parole e si chiude alla comprensione del mistero più profondo. Per capire cioè la morte di Gesù occorre leggere l'Antico Testamento, ma poi Gesù va più avanti. Non solo occorre leggere l'Antico Testamento, ma occorre leggere anche tutto quello che lui aveva ripetutamente detto. Per capire la realtà della croce occorre leggere tutto il disegno di Dio annunciato nell'Antico Testamento, vissuto da Gesù nella sua intera vicenda culminata sulla croce. Antico Testamento e parola di Gesù quindi si equivalgono, costituiscono un'unica parola di Dio, un unico messaggio che contiene fondamentalmente l'annuncio della morte e resurrezione che diventano salvezza dell'uomo. Gesù quindi dice a questi due che lui ormai non va più cercato nel sepolcro. Nel sepolcro non troveranno più niente. Se vuole incontrare lui, l'uomo ha soltanto una via da percorrere: leggere la parola di Dio che parla solo di lui e che è parola viva. Questa spiegazione fa nascere nei due un desiderio. Il desiderio si tramuta in preghiera. Gesù vuole essere pregato: resta con noi perché si fa sera. Ed è una delle preghiere che Gesù naturalmente esaudisce. Si ferma con loro e il tema qui di Luca si approfondisce. Fin qui Luca ha sviluppato un pensiero. In Gesù Dio visita il suo popolo e Dio visita il suo popolo in Gesù camminando insieme con gli uomini e parlando con loro. Ma adesso la visita si approfondisce. Gesù è il Dio che visita gli uomini non soltanto parlando con loro, ma mangiando con loro. E il tema del banchetto anche è molto frequente nel terzo Vangelo. I pasti di Gesù sono fatti storici, ma nello stesso tempo carichi di simbolismo. Sono degli atti con i quali egli vuole testimoniare l'amicizia, la comunione fra Dio e l'uomo e la comunione degli uomini fra di loro. E molti banchetti vengono ricordati nel terzo Vangelo. La chiamata di Levi è associata a un banchetto. Prima della confessione di Pietro c'è stato un pasto che Gesù ha donato a 5.000 persone. Molte parabole Gesù le racconta durante un pasto. Conosciamo la partecipazione di Gesù a un banchetto assieme a Zaccheo, assieme alla peccatrice. Ma in questo episodio dei due discepoli di Emmaus, fra tutti i pasti, Luca ne ricorda due. Quello che Gesù ha fatto con i 5.000 uomini nel deserto e quello compiuto nell'ultima cena. Vengono ricordati qui da Luca specialmente questi due pasti. Infatti, quando Luca descrive la moltiplicazione dei pani nel capitolo 9, afferma pure lì nel versetto 12: il giorno cominciava a declinare, e qui dice: resta con noi perché il giorno già volge al declino. In quel banchetto nel deserto, Gesù dà ordine agli apostoli che invitino la gente a mettersi a tavola, e anche qui si mette a tavola, ma soprattutto ci sono i quattro verbi che ricorrono nel miracolo della moltiplicazione dei pani, nel racconto dell'ultima cena, e qui i quattro verbi sono: prese il pane, rese grazie, lo spezzò e lo diede. Ormai in questo racconto dei discepoli di Emmaus c'è una ghirlanda di ricordi e di allusioni che rievocano la celebrazione eucaristica dei cristiani. Quando si mettono a tavola e uno in persona di Cristo prende il pane, rende grazie, lo spezza e lo distribuisce. Nell'ultima cena Gesù aveva accompagnato questo gesto dicendo: questo è il mio corpo. Al termine dell'incontro con i due discepoli di Emmaus, egli ripete un gesto analogo e i discepoli si rendono conto che lì è il corpo di Gesù e non nel sepolcro. L'itinerario che Luca propone mi pare quindi abbastanza chiaro. A chi chiede dove può incontrare il Cristo risorto, la Chiesa, dove lo può incontrare? Luca risponde: non se ci fermiamo su speranze troppo limitate. Occorre una ricerca, occorre discutere e riflettere sul senso della vita, ma poi occorre che questa riflessione venga arricchita e completata dalla Scrittura e dalla parola di Gesù. Scrittura e parola che fanno ardere il cuore in petto e portano a un incontro completo durante il pasto. In altre parole, l'uomo cristiano, la Chiesa, incontra Gesù risorto nella liturgia, specialmente nell'Eucarestia, che è fatta di questi due momenti. L'uomo all'inizio si interroga sul senso della vita. Gli risponde la parola di Dio, mensa della parola. E poi l'incontro diventa completo quando il cristiano, oltre che dalla parola di Dio, è nutrito dal corpo di Cristo. Riaffiora quindi qui in questo episodio l'esperienza della Chiesa. Nell'ascolto della parola, nell'Eucarestia, la Chiesa ritrova il suo Signore, ritrova quindi la sua identità, ritrova il senso del suo cammino. Nell'Eucarestia, nutrendosi dalla mensa, come dice il Concilio Vaticano II, sia della parola di Dio che del corpo di Cristo, la Chiesa vede gli avvenimenti al di là della superficie, li coglie in profondità, arriva a capire il significato della sua esistenza, a capire che non è sola, che il Signore è con lei, e quindi riceve la forza di riprendere il cammino, vedremo, in un'altra direzione. Ma prima di notare come i due riprendono il cammino in una direzione inversa, cioè ritornano a Gerusalemme, mi preme accennare a quello che Luca dice: si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero, ma lui sparì dalla loro vista. Appena lo hanno riconosciuto, dispare dalla loro vista. In questo modo Gesù rivela la natura del suo corpo glorioso. Rivela cioè che la sua esistenza non è più uguale a quella di prima. Come è il Gesù che i due discepoli di Emmaus incontrano, come è il Gesù in cui noi crediamo. In nessun altro racconto del Nuovo Testamento, mi pare, esiste un'affermazione tanto netta della vera corporeità di Gesù risorto e nello stesso tempo della sua forma nuova di esistenza. Gesù ha una vera corporeità, cammina, discute, si mette a tavola, ma nello stesso tempo ha una forma di esistenza nuova. Non bisognava che il Cristo sopportasse queste sofferenze per entrare nella sua gloria. È già entrato nella gloria. E dopo disparve dalla loro vista. Con questo accenno Luca vuol dirci che la risurrezione di Gesù non è la semplice rianimazione di un cadavere. Non è il ritorno alla vita di questo mondo, non è come quella di Lazzaro, ma è un evento che immette Gesù con la ricchezza di tutta la sua persona, anima e corpo, in una dimensione nuova. Coloro che lo vedono lo scorgono, però mentre egli si sottrae. Luca cioè mette in risalto che il Gesù risorto non è più disponibile così a piacere dell'uomo, ma è ormai diventato il Signore che guida come lui vuole la storia. E nello stesso tempo, proprio perché Luca insiste, non bisognava che il Cristo sopportasse queste sofferenze, insiste nel dire che il risorto è esplicitamente il crocifisso. È come crocifisso che il Signore risorto si dà a vedere. Nella gloria del risorto c'è la gloria di colui che è stato messo sulla croce. Non un morto qualsiasi è risorto, non una morte qualsiasi diventa resurrezione, ma questo morto sulla croce entra nella vita. Questa sua morte, fatta nell'amore e nell'obbedienza, diventa resurrezione, diventa la tomba della morte. E su questo Luca veramente insiste, perché solo questo morto, proprio perché è morto nell'obbedienza e nell'amore, è ormai il vivente, colui che può donare vita e speranza, colui che si rende presente nella Chiesa. I discepoli, quando scompare dalla loro vista, devono capire che egli è risorto per tornare accanto al Padre e guidare la storia e rendersi continuamente presente nella Chiesa tramite i sacramenti, tramite la parola. Durante la vita pubblica, Gesù aveva fatto questa esclamazione registrata da Luca: «Sono venuto a portare il fuoco sulla terra, e come vorrei che fosse già acceso. C'è un battesimo che devo ricevere, e come sono angosciato finché non sia compiuto. Ora questo fuoco veramente lo ha portato. Non ci ardeva forse il cuore in petto mentre ci parlava? Veramente ha portato questo fuoco, e questo fuoco comincia ad accendersi. L'ascolto di Gesù e il pasto insieme con lui mettono il fuoco nella Chiesa, mettono il fuoco nel cuore dei discepoli, ed essi si rendono ormai conto che non possono restare più semplicemente spettatori dubbiosi, ma testimoni coraggiosi. I due discepoli vengono radicalmente trasformati da questo fuoco. Hanno superato ormai la loro tristezza, non si ripiegano più su se stessi, non si rinchiudono nel rimpianto del passato. Ritrovano la speranza e, benché il giorno ormai volgesse al declino, ritornano verso Gerusalemme in fretta. Devono aprirsi ai fratelli. Se si è incontrato il Cristo, se si crede che Lui è vivo, non si ha più paura della comunità, ma si desidera semplicemente stare con essa. La resurrezione di Gesù quindi ha trasformato i due che tornano a Gerusalemme. Così la risurrezione di Gesù viene tramandata tramite la testimonianza di coloro che lo hanno visto. La resurrezione di Gesù è entrata nella storia attraverso le apparizioni e va incontro a tutti gli uomini attraverso le parole di questi primi testimoni oculari. Con l'apparizione Gesù ha donato la fede a questi due discepoli, li spinge però anche a parlare e a confermare nella fede gli altri fratelli, e nella loro parola lui stesso si rende presente. Così la Chiesa viene a contatto con il mistero della Pasqua tramite i testimoni. Arrivano a Gerusalemme e, quando sono nella città santa, anziché dare l'annuncio, sono prevenuti e lo ricevono da parte degli undici, i quali affermano: davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone. Il Nuovo Testamento insiste molto su questa apparizione di Gesù a Simone, colui che aveva rinnegato Gesù perché troppo sicuro di sé, si era però anche pentito e ravveduto. E l'incontro di Gesù risorto rassoda la sua fede e ora può confermare i fratelli. Ma mi preme ricordare questa cosa. Luca qui sottolinea l'importanza della testimonianza degli apostoli. Tra di essi fondamentale la testimonianza di Pietro. In questo modo l'Evangelista completa gli elementi costitutivi di ogni comunità cristiana. Gli elementi costitutivi di ogni comunità cristiana sono questi. Anzitutto una ricerca sul senso della vita, una riflessione sul dove stanno le proprie speranze. Dopo la comunità cristiana riceve luce dalla parola di Dio ascoltata in prospettiva cristologica. La comunità cristiana raggiunge il vertice nella frazione del pane, cioè nell'Eucarestia. Però una comunità cristiana è tale quando si confronta con la fede degli apostoli, quando può esprimere assieme ad essi la stessa professione. Davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone. Quindi fa parte integrante della comunità cristiana non solo un incontro privato con la parola di Dio e uno spezzare il pane in maniera quasi isolata. Fa parte integrante della comunità cristiana la professione di fede nel risorto in base e in armonia con la testimonianza degli apostoli. Ecco quindi l'itinerario che ci propone questo Vangelo che oggi abbiamo letto. Come il cristiano incontra Gesù risorto? Anzitutto discutendo sul senso della vita. Poi rendendosi conto che Gesù è compagno di viaggio. La sua presenza è nella parola. Occorre poi il desiderio di un incontro più profondo. Rimani con noi perché si fa sera. E l'incontro più profondo avviene nell'Eucarestia, la quale però segna un nuovo inizio. Chi crede diventa profeta. Chi ha sperimentato si fa testimone. Chi ha conosciuto il mistero del Cristo morto e risorto se ne fa araldo in fretta e nella gioia, confrontandosi con gli apostoli e specialmente con Pietro. Questo, mi pare, ci voglia dire Luca, è l'itinerario che deve fare l'uomo, o meglio, che Cristo dona all'uomo, l'itinerario che Cristo dona sull'esempio di quello che egli ha donato ai due discepoli di Emmaus. Prima di concludere vorrei esprimere due parole, una di ringraziamento e una di augurio. La parola di ringraziamento a voi, numerosi e particolarmente attenti. La vorrei esprimere questa parola di ringraziamento con le stesse parole del Papa San Gregorio Magno. Spesse volte, molte cose che nella Sacra Scrittura da solo non riuscivo a comprenderle, le ho capite quando mi sono trovato in mezzo a voi, fratelli. E poi l'augurio. Oggi è giorno dell'Annunciazione. Siamo anche ormai alle porte della Settimana Santa. L'augurio che ci facciamo a vicenda è proprio questo, che nelle nostre giornate, che sono un cammino fatto anche di delusioni e di dolore, Cristo si accosti a noi come compagno di viaggio. Cristo riveli a noi, specialmente nella prossima Settimana Santa, il mistero della vita, il senso dell'esistenza e ci nutra con la parola e col suo pane e ci aiuti a essere testimoni. E con Giovanni Paolo II sono parole della Redemptor Hominis. Vorrei anche augurarmi che la vita di Cristo parli anche a tanti uomini che non sono ancora in grado di ripetere con Pietro: tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente. Dopo quello che è stato detto, non posso aggiungere né ringraziamento, se non il ringraziamento al relatore, anche a nome vostro, vero? Né auguri, ma da associarmi a quelli che sono stati formulati così bene. Dico la verità, porto il ricordo, e lo registrerò anche in sede dovuta, di questo interessamento così vivo e così limpido, di questa, testimoniato dalla assiduità così frequente e anche insomma così fedele a questi 5 incontri, che ha manifestato un certo tipo di sensibilità a cui certamente il collega Donzani ha contribuito a crearla e a svilupparla, vero, ancora prima di quest'anno, non c'è dubbio, ma a cui nella misura del possibile ci proponiamo anche di corrispondere in seguito di tempo. Perché stavo proprio pensando anche in quest'ultima riflessione, che è stata anche nel tono indubbiamente più una meditazione religiosa, vero, che insomma ci si è avvicinata anche a quel ardore del cuore che, senza del quale non si accosta la scrittura, eppure non ha fatto torto in nessuna maniera ad un rigore scientifico con cui anche si devono abordare questi testi e questi argomenti. Anzi, direi che l'una cosa non nuoce all'altra e l'una cosa potenzia l'altra se è messa in giusta armonia. Al punto che, stavo riflettendo, certe volte anche certe elucubrazioni scientifiche, ma che mancano assolutamente di questa dimensione, hanno un carattere di frivolezza o perlomeno di unilateralità scentrata. In questo senso mi sento anche di rivendicare il valore pieno di verità, in senso più autentico, anche di una esposizione che abbia carattere di meditazione. Ecco, concludo semplicemente augurando a tutti voi buona Pasqua e possibilmente arrivederci in questa sede. Un piccolo annuncio mi hanno pregato di dare: il convegno Maria Cristina e la SEAC venerdì prossimo 28 alle ore 17 presso il centro Rosmini promuove una conferenza sul tema San Benedetto e i Benedettini. Mi hanno pregato di darvi comunicazione. Come al solito, chi desidera fermarsi, anche se fosse una persona o due, noi siamo volentieri a disposizione, agli altri andate in pace.